Potevi almeno mettere una gonna che era meno trasparente, meno insomma, così nuda sembri agli occhi della gente. Cosa mai dirà chi ti vede senza niente? Dai, mettiti un cappotto che ti porto al mare, mettiti gli occhiali, non farti vedere. Non potevi scegliere un altro rossetto, sembra che lo fai apposta per dispetto. Non guardare quello lì, cammina dritto, ma perché tu fai di tutto per farmi fesso? Abbottonati la giacca che si vede troppo, quando esco con te divento pazzo. La tua gelosia ha mille maschere, mille trucchi, mille facce, mille trappole. Lasciami un po' d'aria, altrimenti vado in giro tutta nuda a cercare amanti. Gelo, gelosia, se mi ami, non lanciare più i tuoi sassi sui miei seni. Basta con i trucchi, con i tuoi anatemi, se davvero tu mi ami, se davvero a me tieni. Non ballare, non parlare, non respirare, non prendere mai un solo bicchiere. Resta qui a guinzaglio sotto ai miei occhi, che voglio controllare chi tocchi. Non credere che non veda dietro i tuoi occhi, ti stai scopando tutti i giovani e anche tutti i vecchi. Tu non vuoi che si sappia che sei la mia donna, mi hai umiliato davanti a tutti senza vergogna. A chi telefonavi se io sono qui? A chi devi parlare? Dimmi a chi. È possibile che tu possa sempre mentire? Lo vuoi capire sì o no che sei il mio amore? La tua gelosia ha mille maschere, mille trucchi, mille facce, mille trappole. Lasciami un po' d'aria, altrimenti vado in giro tutta nuda a cercare amanti. Gelo, gelosia, se mi ami, non lanciare più i tuoi sassi sui miei seni. Basta con i trucchi, i tuoi anatemi, se davvero tu mi ami, se davvero a me tieni. Dammi un bacio, anzi due, baciami sempre, nella piazza, dentro al bar, davanti alla gente. Capiranno che sei mia, che mi appartieni, senza te sarei perduto, senza domani. Non cantare, non guardare, non mentire, soprattutto niente olfatto, non parlare. Ma è possibile che tu debba sempre avere le braccia nude sotto la luce del sole? Ho visto che lo fissavi, fai molta attenzione. Potrei fare un massacro, una rivoluzione. La tua gelosia ha mille maschere, mille trucchi, mille facce, mille trappole. Lasciami un po' d'aria, altrimenti vado in giro tutta nuda a cercare amanti. Gelo, gelosia, se mi ami, non lasciare più i tuoi sassi sui miei seni. Basta con i trucchi, i tuoi anatemi, vado in giro se davvero